Eccoci qua, ora 21.05, questa è Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. www.ondarossa.info, il nostro sito internet, e naturalmente 87.9 è la nostra frequenza ormai storica. Spazio che andrà avanti fino alle 22.30, se non ricordo male, questa sera non andrà in onda 25 o'clock. Quindi cominciamo a salutare una serie di affezionati di questo spazio. Maya e Nicolo Locci di Stigmate dalla Sardegna, Antonio Clipper, Valerio Michetti della Grazia Obliqua, Cecilia Miradoli di Pindar. Tabula Rasa da Cortina d'Ampezzo, Laura dalle parti di Frosinone, Marco Milanesio di Disordine, Sandro Bergamo sempre qui dalla capitale, Francesco Cornello invece ci sta ascoltando da Bergamo, poi c'è il medico della peste, progetto Noise Industrial qui di Roma. Buonasera anche a Mariolino Stancati, che chiameremo presto in causa. Dario Arrighi e Sara K.O. Fontana di Progetto No Name, anche loro presto, nelle prossime settimane, manderemo un loro nuovo lavoro. E poi Cristiano Bocci di Chemical Resistance, Enrico Ponzone di Sokunshi Butsu Project, il buon Lucky Wake, storico progetto ambient qui di Roma. Massimo Oders Mascheroni di Oders, che ci ascolteremo più tardi. Arianna Degni Lombardo di Noise Cluster insieme a Flavio Derbecante, Mariano da Berlino, Roberto Faloci di Phantom Ship, Eugene Vintras di Gin. Calmarz qui di Roma. Prima di iniziare un breve resoconto, anzi un breve, come dire, delle breve note su concerti prossimi futuri. Cominciamo da venerdì, qui a Roma avremo per l'appunto Oders, progetto di Industrial Noise di Massimo Oders Mascheroni e Antonio Maglione. Li avremo qui a Roma venerdì prossimo il 15, e i più sanno che generalmente non facciamo pubblicità di locali, questa sera per una volta facciamo un'eccezione, anche perché il locale è di nicchia e molto interessante. Suoneranno al Klang venerdì prossimo 15, dunque Oders a Roma. Sabato successivo, sempre a Roma, suoneranno il Blocco 24. Qui invece ci spostiamo sul versante Dark Wave, Synth Pop, IBM, Blocco 24, che stiamo ascoltando ogni lunedì sera in sede di Disorder. E allora noi andiamo ad iniziare proprio con il già citato Mariolino Stancati. E questo perché? Perché lui, Daniele Ciullini e Gabriele Gasparotti hanno fatto uscire questa interessante uscita dal nome Portraits attraverso l'etichetta napoletana di Raffaele Pezzella, la Anesple Sounds Group. Album tra ambient, kraut rock e sperimentazioni di varia, diciamo, natura e fattura. e che ha trovato questi tre artisti in splendida armonia. E a dimostrazione di questo ci andiamo ad ascoltare una traccia proprio di Mario Lino Stancati, artista multimediale che si muove tra teatro e musica. E di lui ci ascolteremo una traccia dal nome Magma Grecia. E poi anche Daniele Ciullini, che è tornato da qualche anno in attività dopo molti anni di silenzio, con Springtime Boys. Cominciate ora a togliere i morti e alle donne ordinatelo. Ripuliscano poi i bellissimi troni e le mense con acqua e con spugne porose. Dopo che avrete ordinato tutta la casa e dalla sala ben costruita avrete condotto le serve tra la rotonda e il recinto perfetto dell'atrio, colpitele con le spade affilate finché avrete tolto a tutte la vita e avranno oubliato l'amore che offrivano ai proci, unendosi loro in segreto. Disse così, e le donne arrivarono tutte in folla, terribilmente gemendo, versando pianto copioso. Voglio strappare la vita con una semplice morte a queste che rovesciarono infamie sulla mia testa e su nostra madre, e passavano coi proci le notti. Non voglio strappare la vita con una semplice morte a queste che rovesciarono infamie sulla mia testa. Voglio strappare la vita con una semplice morte a queste. Disse così e appese una fune di nave dalla prora turchina ad una colonna grande della rotonda, aggirò intorno tendendola in alto perché nessuno arrivasse al suolo coi piedi. Come quando dei tordi con grandi ali Gesù, come già annunciato, questo invece è Daniele Ciollini, sempre da Portraits, e la traccia in questione si chiama Springtime Boys. Un trittico di artisti effettivamente di alto lignaggio: Gabriele Gasparotti, Daniele Ciollini e Mario Lino Stancati. Insieme hanno ideato questo Portraits. Per quanto riguarda questa sera, ci siamo ascoltati la Magma Grecia, proprio di Mario Lino Stancati, con un format effettivamente più teatrale rispetto alla ancora più sperimentale Springtime Boys del buon Daniele Ciollini. Vado a salutare Wunus Aylin, affezionato ascoltatore di questi spazi, nonché ottimo progetto industrial piemontese. Un saluto anche ad Alessandra qui a Roma. E noi andiamo avanti. Ancora Italia, e abbiamo qui sotto mano questo progetto molto interessante che ho scoperto recentemente, che si chiama Blocco Nero. Interessante perché va innanzitutto a distruggere una serie di luoghi comuni che ruotano, diciamo, intorno al neofolk. Un neofolk che in questa occasione si va ad unire, soprattutto nell'ultimo lavoro che abbiamo apprezzato nelle scorse settimane, ossia ottobre, lo si va a unire a atmosfere più industrial. Invece la scorsa settimana, come questa sera, siamo tornati indietro al 2013, e per Blocco Nero ci ascolteremo due passaggi da Appello numero 1. E il sottotitolo dice: il primo appello alle coscienze rivoluzionarie del Blocco Nero. Ricordiamo che questo collettivo milanese si rifà alla tradizione anarchica di Bakunin, Malatesta. Sono questi, diciamo, i riferimenti politico-culturali principali di Blocco Nero. Ci ascoltiamo A un ladro e Arditi del popolo. Thank you. Blocco Nero, collettivo milanese, con questo appello numero uno, una vecchia cosa del 2013, più screziato di neofolk rispetto invece all'album del 2020 ottobre, più strutturato e più cupo nel suo svolgersi. Blocco Nero. Quest'ultima si chiamava Arditi del Popolo, anticipata da A un ladro. Andiamo a risalutare Sara K.O. Fontana di Progetto No Name. Noi andiamo avanti, ce ne andiamo negli Stati Uniti e lo facciamo con l'ultimo lavoro di Lingua Ignota, uno degli act più interessanti al femminile degli ultimi anni. E il 6 agosto di quest'anno è uscito l'ultima fatica dal nome Sinner Get Ready, forse leggermente più accessibile rispetto agli ottimi esordi di Christine Heiter. Giudicate voi, comunque ci ascoltiamo la splendida The Order o Spiritual Virgins che va ad aprire questo Sinner Get Ready. Children. Un sublime ritorno, questo di Lingua Ignota di Christine Heiter, si chiama Sind Get Ready. Si è sempre segnalata come un artista capace di fondere insieme elementi apparentemente diversi tra di loro, quindi troveremo del blues, del gospel stravolto anche in questa traccia. Questa The Order of Spiritual Virgins. Insieme agli Swans e più psichedelico noise, a Diamanda Galas, un frullatore di un gusto veramente superiore, un elisir di lunga vita dal punto di vista almeno dei sensi. Lingua Ignota, Sinner Gets Ready. Ci ricorda anche un'altra artista di questi tempi, Anna von Auswolf. Un bel, insomma, una bella gara tra chi poi riesce a essere più intensa su disco, e speriamo anche di vederla da queste parti dal vivo. Ha suonato a Milano qualche tempo fa. Ma noi torniamo a Roma e lo facciamo con New Possession Order. Il tutto si fa più ritualistico, industriale. C'è molta elettronica anche in al confine quasi della trance music in questo At War with Christ and Satan. Kashmiri Gompa e Ego Non Te Absolvo, le due tracce per questa sera. Победы. kendisine dayanan mültecilere bile tahammül edemeyen Batı'nın, Irak, Suriye'ye, Libya'ya özgürlük, barış ve refah götürmek için çalıştığı iddiası inandırıcılığını kaybetti. Dolayısıyla da bir şey. Ama bu kazak, acaba bu kazak, ve gari mutlakon olanı, etkarim ve mavakim. בסופו של דבר, בעזרת השם, יהודה תשכון לבטח ועם ישראל ישכון בארצנו לעד. No, I have not, but I feel that they will be very safe. Believe me, they will be very safe. And if anything happens to Guam, there's going to be big, big trouble in North Korea. 대현동, 오백령 동지, 오진우 동지, 최광 동지, 김준수 동지, 박성철 동지, 전문섭 동지, 이울설 동지를 비롯한 항일 혁명 투사들을 죽였습니다. 2 momenti decisamente diversi da questo At War with Christ and Satan per New Procession Order con Alessandro Papa, Marcello Fraioli, Gloria Bazzocchi. Questo era il nucleo storico e principale di New Procession Order. 2 momenti, la più ritualistica traccia, la terza, Kashmiri Gompa, e le aperture e le dinamicità Electro Rock di Ego Non Te Absolvo, che mi ha anche ricordato la migliore marzialità stile Laibach. È una giusta alternanza tra momenti più introspettivi e appunto fughe in avanti elettroniche. Abbiamo parlato nel caso di Lingua Ignota anche dell'influenza degli Swans di Michael Gira, chiamatelo come volete, lo chiamiamo Gira, decidiamo così. E quindi torno indietro di molti anni a un lavoro del 1996 per gli Swans. Un lavoro che si chiamava Soundtracks for the Blind, che fondamentalmente era il lavoro che concludeva la prima fase artistica degli Swans. Ci furono molti anni di silenzio dove Michael Gira soprattutto si espresse soprattutto con gli Angels of Light, e poi nel 2010 ha ripreso in mano le sorti degli Swans, andandoli ancora più a verificare, a paragonare ai Velvet più estremi, Velvet Underground più estremi, fino ai giorni nostri, dove non sappiamo esattamente le future direzioni artistiche di questa avventura storica proveniente da New York. Consolato la morte, dulcis hostes anima, marce refugie, in labore regis, in astu. Ci andiamo ad ascoltare la lunga Helpless Child per gli Swans.